Ciao, ti do il mio personale benvenuto a questa serie di podcast Sprigiona il tennista che è in te, nella quale intervisterò numerosi personaggi di rilievo del nostro sport, alcuni anche di caratura internazionale. Bene, ed è proprio per continuare ad offrirti contenuti di alto valore che possono darti nuovi spunti per migliorare il tuo tennis che ti invito a mettere mi piace alla mia pagina Facebook Tennis Winner Game. In questo modo non solo contribuirai a mantenere vivo l'interesse per questa iniziativa, ma mi consentirai di verificare il tuo gradimento. Grazie! Ciao! Qui è Tiziano che ti parla e oggi sono qui in compagnia di una maestra illuminata e il perché lo scoprirai ascoltando le sue parole. E la maestra in questione si chiama Monia Trevisiol e Monia è maestra nazionale FIT dal 2000, professional PTR e dottoressa in psicologia. Come ti racconterà meglio di persona, ha lavorato presso il Circolo della Stampa Sporting di Torino dal 1999 al 2015 ed è l'inventrice e l'ideatrice dei progetti 1-2-3 Tennis, Family Tennis e Tennis per Gioco. Monia è mamma anche di due bambini. Come definirla in poche parole? Un vulcano di sorrisi, entusiasmo, energia e passione. Ciao Monia, benvenuta! Ciao Tiziano, ti ringrazio di avermi coinvolto in tutti i tuoi progetti, ti seguo piacevolmente sul tuo portale, mi piace vedere un maestro pieno di iniziativa perché credo che oggi ci sia bisogno di persone come te per fare la differenza. Grazie Monia per le tue parole e grazie a te di partecipare al podcast del mio sito internet tenniswinnergame.com che ho deciso di intitolare Sprigiona il tennista che è in te, proprio per come missione di questo podcast è quella di portare, espandere le nostre conoscenze di noi maestri, anche mental coach o preparatori fisici che la pensano sicuramente in maniera diversa, diciamo, dalla massa critica e portare appunto queste nostre fondamentali, a mio modesto parere, conoscenze a più appassionati giocatori di tennis possibili affinché loro possano migliorare il loro tennis. Quindi questo è l'obiettivo, la missione di questo podcast. Bene, partecipo molto volentieri e seguo la tua missione. E bene, io Monia volevo farti subito la prima domanda perché volevo, come tutti gli appassionati che ci stanno ascoltando in questo momento, volevo conoscerti un po' meglio e quindi volevo sapere da te se mi potevi parlare un po' della tua esperienza nel mondo del tennis come maestra. E mi spiego meglio, come sei entrata in contatto con questo meraviglioso mondo, prima come giocatrice e poi come allenatrice? Allora, io ho iniziato a giocare a tennis quando avevo 9 anni. Penso come tanti bambini avevo genitori appassionati di sport e appassionati di tennis, quindi mi ritrovavo il sabato e la domenica a andare al circolo insieme a loro e poi mi hanno detto ma vuoi iniziare a provare anche tu? E ho detto ma sì, perché no? In realtà devo dire che all'inizio non ero particolarmente appassionata, anzi la dico tutta, mi accompagnava la mia nonna a giocare e io andavo volentieri perché finito di giocare la mia nonna mi comprava le patatine, quindi ho detto fantastico, vado a giocare a tennis, mia nonna mi compra le patatine e sono ben felice. In realtà poi la vita mi ha dato un grosso regalo, c'è un maestro fantastico all'inizio e dei maestri fantastici dopo che porto nel mio cuore e che mi hanno aiutato a crescere e a diventare la donna e l'insegnante che sono oggi. E questo maestro Ciro Ruggero mi ha avviato al tennis e pian pianino mi sono appassionata, tanto che a casa, io vivevo in campagna, avevo un muro e quindi ogni tanto con mio papà la sera d'estate ci mettevamo lì a sfidare questo muro che era imbattibile e mi faceva impazzire e non mi faceva mai vincere. Però insomma la mia storia di tennis è iniziata un po' così. E poi appassionandomi sempre di più ho cambiato circolo, sono andata al Monviso e lì ho incontrato un maestro davvero che mi ha rubato cuore e anima, che si chiamava Elio Pandolfi, ho giocato con lui qualche anno e poi nel momento in cui lui è tornato a casa sua a Napoli io ho deciso di andare via perché l'idea di entrare al circolo e di non vederlo più mi faceva stare davvero male. E quindi ho deciso di cambiare. Ho cambiato seguendo le amicizie, nel senso che era già periodo di tornei, andavo in giro con delle amiche, ci ritrovavamo sui campi E quindi mi hanno detto: dai, perché non vieni con noi alle Pleiadi? E così mi sono trasferita al circolo delle Pleiadi, dove ho vissuto gli anni di crescita adolescenziali in cui ho giocato, ho viaggiato insieme a questo gruppo di ragazze e al nostro mitico maestro Naldra, e abbiamo fatto tornei, abbiamo fatto esperienze di crescita a 360 gradi, perché comunque quando si viaggia insieme è vero, ci si confronta sul campo dello sport, ma ci si confronta anche con la vita, per cui magari arrivi in un posto e ci sono problemi con l'albergo, arrivi in un altro posto e non hai la valigia perché con l'aereo l'hanno persa, e quindi comunque ti trovi a dover affrontare quello che poi la vita ti mette davanti negli anni. E quindi in qualche modo tutti questi anni mi hanno accessoriata anche per la vita quotidiana e per il futuro. E io sono arrivata a essere B3, mi sono presa le mie soddisfazioni, la mia passione era cresciuta sul campo da tennis, ma era anche cresciuta grazie alla mia indole in un altro ambito, nel senso che proprio per come i maestri si erano approcciati a me, mi piaceva l'idea di poter fare la stessa cosa e di trasmetterlo. Per cui in qualche modo volevo trasferire tutto questo amore per il tennis e il piacere di stare con i bambini per crescerli sotto un altro tipo di forma, e quindi ho deciso di intraprendere anch'io quello che era il percorso di insegnamento per trasferire ai miei bambini ciò che avevo imparato e ciò che il tennis mi aveva regalato. In realtà io avevo già le idee abbastanza chiare sulla tipologia degli allievi che volevo, perché mi piaceva proprio l'idea di crescermi il bambino, per cui in realtà più che l'agonista avevo proprio in mente di plasmare una materia e di dargli una forma, per cui io nel bambino rivedevo questo. E ho scelto però anche di studiare, nel senso che in realtà io volevo fare ingegneria aeronautica perché ero appassionata di costruzione, quindi volevo disegnare i pezzi degli aerei per fare degli aerei, e poi mi sono resa conto che avrei dovuto invece fare una scelta, e quindi ho iniziato a insegnare dicendomi: se davvero mi piace è meglio che faccia altro. E quindi, insomma, innamorata di ciò che facevo, ho scelto di iscrivermi all'università, ma ho scelto psicologia perché la ritenevo comunque una facoltà utile per conoscere, aiutare e trasformare le persone, per cui la vedevo come un lavoro che mi avrebbe sicuramente supportato in quello che amavo fare. E quindi mi sono iscritta a psicologia, facevo la maestra sul campo, e poi ho detto: chissà la vita cosa mi riserverà, magari un giorno potrei anche fare la psicologia dello sport. E quindi mi sono aperta, come dire, un po' di strade. E questa è un po' la mia storia, da quando mi sono avvicinata al tennis a quando ho scelto di intraprendere questo percorso. Bene, ecco. Bene, hai fatto un quadro molto completo, diciamo, del tuo passato, sia da giocatrice che poi come ti sei avvicinato ovviamente al mondo del tennis come allenatrice. E ho notato con grandissimo interesse che nei primi anni della tua carriera formativa da giocatrice fino all'età adolescenziale hai nominato tre maestri di tennis che per te sono stati fondamentali, e questo appunto fa capire quanto la figura del maestro di tennis sia importante in un ragazzo o una ragazza che si sta avvicinando al tennis per le prime volte o è alle prime armi nell'apprendimento del gioco del tennis, e quanto sia importante appunto la figura del maestro, e soprattutto per quanto riguarda la passione che questo può, e mi permetto di dire deve, infondere nel ragazzo affinché questo possa continuare per usare tra virgolette il tennis come miglioramento non solo del gioco in senso stesso, ma in senso stretto, ma della vita. Il tennis è un po' una palestra per la vita, non so se concordi con quello che ho appena detto. Concordo pienamente con te. Io ritengo che l'insegnante di tennis sia un educatore a tutti gli effetti, come l'insegnante di scuola o come il genitore, per cui è importante che queste figure viaggino in sinergia per aiutare il bambino a diventare un ragazzo e un uomo con dei valori, con delle regole, con dei principi, e che in qualche modo lo aiutino a crescere e a diventare veramente sempre più autonomo e capace di tirare fuori le proprie potenzialità e di riconoscerle. Sicuramente essere insegnanti presuppone che ci sia un qualche cosa che ti spinga a farlo. A me piace definire un insegnante per vocazione. Penso che i migliori insegnanti siano insegnanti per vocazione, perché hanno quel qualcosa, quel fuoco dentro che li anima e li spinge, non per il business, ma per un progetto più grande, che è quello di trasformare e dare valore alle persone che abbiamo davanti. Sicuramente dobbiamo essere delle guide, dei punti di riferimento, non solo sul campo, ma anche nelle situazioni che ci richiedono presenti. Quando un allievo ci pone una domanda su qualcosa che esula il tennis, noi dobbiamo esserci e ascoltarli, perché il rapporto è la prima cosa che si deve creare, perché se non c'è rapporto, per quanto mi riguarda, non c'è nulla dietro. Io, prima di insegnare a tirare una palla, cerco di creare un rapporto magico per cui il mio allievo prima si fida e si affida a me, e dopodiché posso davvero insegnargli e trasmettergli qualcosa. Certo. Altrimenti diventa difficile. E il concetto di relazione, di empatia, comunque di atmosfera positiva che si viene a creare con un ragazzo, che possa essere un ragazzo, diciamo, giovane, come un giocatore, un appassionato adulto che si avvicina nel tennis, è appunto la differenza, penso io, tra relazione e comunicazione, perché la comunicazione parte dal maestro, parte da noi, ma poi quando si è a lezione con un ragazzo, la relazione parte da lui, quindi la sua voglia di relazionarsi, di conoscere meglio, è fondamentale. È da lì che noi siamo una guida e ci appoggiamo in riferimento per il suo miglioramento. Assolutamente, assolutamente. E condivido in pieno, nel senso che il rapporto è fondamentale, e quello deve venire prima di tutto il resto. Altrimenti non è difficile anche poi continuare a comunicare, perché a un certo punto l'allievo, se non ti vede interessato, lui mette il muro. Vero. E quindi anche il nostro compito, la nostra missione, perché poi alla fine quella è, diventa davvero difficile da portare avanti, e potrebbe anche un po' spiegare la problematica di come negli anni, crescendo, questi ragazzi poi tendono ad abbandonare le attività, a rivolgersi ad attività non per la pista stessa probabilmente, ma perché gli manca quell'aspetto umano che man mano che crescono, soprattutto negli anni dell'adolescenza, è importantissimo, perché ha bisogno di sentire delle persone presenti, vicine, che li guidino e li consiglino, anche se sono poi loro che diventano paladini di libertà, mm-hmm. i primi ad avere necessità di questo. Giusto, io stesso ci sono arrivato in questo discorso, Monia, per tentativi, per prove ed errori, sbattendoci la testa, penso un po' come in tutte le cose nella vita, nel senso che nei miei primi anni di insegnamento pensavo a comunicare, e dopo, come dici te, chiaramente l'allievo erge e alza questo muro, e dopo un po' diventa impenetrabile, e col passare del tempo conoscere meglio gli allievi, imparare ad ascoltarli, entrare in relazione con loro, mi è servito anche per migliorare parti del mio carattere, parti della mia personalità, e mi fanno diventare ogni giorno una persona migliore. Quindi questo è uno scambio. Io molto spesso dico ai miei ragazzi che loro pensano di venire in una struttura sportiva per apprendere da noi, ma è uno scambio al 50-50, perché apprendiamo tantissimo, molto anche noi da loro, e sapendoli ascoltare, entrando in relazione, comprendendo le loro difficoltà, come giustamente tu mi stavi dicendo poc'anzi. Sì, assolutamente, condivido ancora quello che stai dicendo, perché io stessa oggi, oltre agli insegnamenti dei miei maestri, sono quella che sono grazie agli insegnamenti dei miei allievi. Io ho imparato a fare la maestra grazie a ciò che ho osservato e ascoltato dai miei allievi, nel senso che una delle cose che ho imparato e che poi mi ha portato a fare la mia scelta di vita, lavorando con il mio gruppo di adolescenti, avevo un gruppo di una ventina di ragazzi che ho cresciuto, qualcuno addirittura da quando aveva 5 anni, e la cosa che più mi importavano era la mancanza di ascolto da parte dei loro genitori. E questa cosa mi ha dato molto da riflettere, uno perché ho detto, bene, hai bisogno di essere ascoltato, ovviamente devo essere io la prima a farlo e soprattutto essere interessata a quello che mi dici. Certo. E la seconda cosa, ho detto, caspita, se un figlio vuole essere ascoltato dal proprio genitore, è meglio che io, mamma, in primis, stia attenta a questo aspetto, perché effettivamente è una problematica molto diffusa. Nel senso che veramente tanti in questi anni mi hanno detto ci manca l'essere ascoltati dai nostri genitori, non la loro presenza, l'essere ascoltati, quindi anche ragazzi che avevano genitori presenti ma non si sentivano ascoltati, per cui poi lì ovviamente loro chiudono la porta, il genitore fatica a relazionarsi ed è poi una cosa, un rapporto che si incrina nel tempo, quando in realtà con qualche attenzione la porta si potrebbe facilmente riaprire e il rapporto potrebbe funzionare davvero bene. E chi meglio di te può dirlo, visto che hai due bambini e quindi sai, sono convintissimo che ti stai rapportando al meglio con loro, e questo è proprio il punto principale, appunto saperli ascoltare, cercare di comprendere le loro esigenze e poi diciamo essere una guida, quindi assolutamente condivido in pieno. Questo è un discorso che meriterebbe ben altro spazio e altro tempo, perché ci sarebbe tanto da parlare, però ritornando appunto alla tua vita, volevo sapere in pratica se c'è stato un gancio, ovvero quando hai capito che questa passione doveva rappresentare per te qualcosa in più nella tua vita, perché prima ti ho ascoltato con attenzione, stavi facendo l'allenatrice, intanto studiavi psicologia, quindi quando è che hai deciso di dare la svolta alla tua carriera e hai deciso di diventare una maestra di tennis? Allora, guarda, io quando ho finito il liceo, in realtà in quegli anni avevo vissuto degli anni abbastanza faticosi, perché io mi svegliavo alle 4 della mattina a studiare, perché ovviamente volevo andare a scuola, e dopodiché andavo a scuola, a luna uscivo, il mio santo papà mi veniva a prendere con dei panini in macchina, mi accompagnava a giocare alle Pleiadi, che non erano vicine alla scuola, io mangiavo in macchina, alle 2 entravo in campo, alla fine facevo 2 ore di tennis, 2 ore di atletica, finivo alle 6, mi mettevo, vabbè, doccia, mi mettevo a fare le cose scritte, aspettavo mio papà che tornasse a prendermi alle 8 di sera, alle 8 e mezza arrivavo a casa, mangiavo e svenivo sui libri, per cui ho passato il mio liceo in modo abbastanza faticoso, però la passione per ciò che facevo mi ha sempre supportato e quindi sono sempre andata avanti come un treno, mi sono temprata e nulla mi ha fermato. E è anche vero che in questi anni, insomma, ho anche girato per i tornei, per cui mi capitava di saltare anche giorni di scuola, dover recuperare magari anche pezzi importanti di interrogazioni, e quindi insomma, come dire, mi sentivo un po' una vagabonda e anche un po' spremuta sotto certi punti di vista, nonostante fosse una mia scelta, perché i miei non hanno mai spinto, interferito, e di questo mi sono sempre sentita fortunata ad avere due genitori così. Però quando ho finito il liceo volevo avere la terra sotto i piedi e un tetto sulla testa fisso, e quindi lì ho iniziato a pensare di rallentare un po' la mia attività e di iniziare a fare del bene, per cui in realtà insomma ho continuato a giocare, perché io l'ultima partita che ho fatto l'ho fatta quando ero incinta di mia figlia nel 2007, e ho giocato a Casale e non lo dimenticherò mai, e ero a Casale, non sapevo di essere ancora incinta, ho giocato questa partita, mi sentivo un po' strana. E in realtà il sabato dopo avrei dovuto rigiocare, perché avevo il play out del circolo, perché stavamo facendo la A2, e invece ho detto non me la sento di giocare, non ho comunicato niente a nessuno, poi ho spiegato il perché successivamente, e quindi ho continuato comunque a giocare, a fare attività in modo diverso fino al 2007, ma in modo parallelo a quella che era stata diciamo la mia scelta di fermarmi un po' di più. Non avevo più quella spinta di girare, di prendere treni, di prendere macchine aeree, di andare. Ed era probabilmente giunto il momento, o avevo maturato dentro di me questo passaggio, in modo da veramente offrire quello che i miei maestri avevano offerto a me. E quindi nel 1999 ho fatto il corso PPR e con la mia amica Cristina, con la quale ho fondato questo progetto Tennis per Gioco, e perché volevo diventare maestra, per cui volevo avere un qualcosa in mano che mi riconoscesse. E nel 2000 mi sono iscritta al corso da maestra a Roma. Sono stata a Roma, è stata una bellissima esperienza, e sono diventata quindi maestra nazionale FIT, e lì è iniziata la mia avventura, perché ho iniziato a lavorare dove già giocavo, al circolo della Stampa Sporting di Torino. E il primo anno sono stata affiancata a un maestro straordinario con i bimbi, Roger Failla, che è stato il mio coach in bimbe, perché mi ha insegnato davvero a rapportarmi con i bambini e a farmi capire come farmi innamorare del tennis, che sembra una cosa scontata, ma quando sai come fare, non è sempre così scontato sapere come farlo in un altro modo. E quindi io mi sono posta in osservazione, lo ascoltavo, gli facevo le domande, lui è appassionatissimo, cioè c'era prima il suo cuore, poi lui. E quindi ho imparato davvero tantissimo. E da lì erano diventati la mia vita, per cui i loro sorrisi, il loro modo di coinvolgerti, di sfidarti, di farti piano piano entrare dalla loro porta per guidarli e accompagnarli nella crescita, erano davvero quella che io ritenevo la mia missione. Per cui, insomma, anno dopo anno, lavorando accanto a altri colleghi di esperienza, ho imparato pian pianino a fare sempre meglio la maestra. Nel 2004 c'è stata la svolta, perché ho avuto la possibilità di lavorare con i bambini più piccoli della propria identica, e lì ho capito ancora di più quale sarebbe stata la mia missione, nel senso che mi sono resa conto che quelli erano davvero i bambini che volevo crescere, perché erano nulla, nel senso che loro arrivavano lì e dicevano: vabbè, c'è una racchetta, giochiamo a tennis, e quindi tu dovevi trasmettere tutto. Nello stesso anno mi sono laureata, sono diventata dottoressa in psicologia, e ho scelto, per amore di ciò che facevo, di prendere la mia laurea e di metterla nel famoso cassetto dei sogni. Alcuni miei allievi però mi hanno detto: maestra, adesso ci abbandoni. E come? Io ho detto: no, non posso abbandonarvi. E in realtà mi sono resa conto che essere maestra di tennis a volte viene visto come un lavoro di ripiego. Si fa la maestra perché non si sa far altro al dire di qualcuno, no? E quindi per i miei allievi avrei dovuto cambiare lavoro, ero dottoressa, ma per me no, non era assolutamente così. Io ero molto orgogliosa di essere maestra di tennis, anzi, io mi sento una maestra di tennis per vocazione, mi sono sempre sentita una maestra di tennis per vocazione. E quindi, insomma, sono rimasta sui miei campi, e con grande gioia ovviamente dei miei allievi, e ho iniziato questa mia nuova avventura con i bimbi piccoli. E non dimenticherò mai un giorno in cui ero all'inizio e questi bambini sono saltati tutti addosso e io sono caduta per terra. E lì ho capito che dovevo imparare tante cose, perché ho detto: i miei allievi non mi possono buttare per terra, perché sono io il riferimento e la guida, devo guidarli, accompagnarli nella loro crescita. E quindi, insomma, da quel giorno lì ho capito che dovevo prendere le redini in mano e guidarli meglio. E quindi, insomma, li ho guardati, li ho osservati, li ho ascoltati, e ho imparato tante, davvero davvero tante cose da loro. E penso che nella vita fare ciò che ami e con chi ami rappresenti davvero il massimo della gratificazione della vita. Per cui sono ben felice della mia scelta, di tutto quello che ho vissuto in questi anni, e non rimpiango nulla. Sono stati davvero anni magici, con bambini magici e con colleghi che mi hanno dato davvero tanto. E che, Beh, è come dire, ti sono stato ad ascoltare con attenzione perché è un percorso davvero molto interessante, mi ha dato modo di riflettere, di pensare, di fare altre domande, ma mi stavo mettendo dalla parte dei nostri ascoltatori, degli appassionati e dei giocatori di tennis che sono anche molto spesso genitori. E quindi, come dire, tutto quello che hai detto si vede, si percepisce tranquillamente tutta la tua passione, l'amore per quello che tu stai facendo e la dedizione e l'impegno con il quale tu metti giorno dopo giorno per la crescita di questi piccoli ragazzi. Quindi io volevo dire a tutti gli appassionati giocatori che sono anche genitori. E che sicuramente sei una maestra che fa la differenza col rapporto di questi ragazzi perché metti a loro disposizione la tua passione e l'amore per quello che fai. Quindi io ti consiglio e ti consiglierò come maestra e allenatrice per tutti i genitori di figli che incontrerò da oggi in avanti e gli dirò di venirti a trovare. Ti ringrazio, mi crei qualche difficoltà per le mie scelte di vita, ma sono ben disponibile a dare qualche buon consiglio se qualche genitore ha voglia di chiederlo su quella che è poi la mia pagina del mio nuovo progetto Family Tennis su Facebook, dove ogni giorno posto una pillola a volte anche scontata, ma che è sempre bene, come dire, tenere a mente per fare la differenza e migliorare la qualità del rapporto con i nostri figli e con i bambini. Certo, tra poco arriveremo anche a questo discorso sui tuoi progetti. Volevo chiederti, entrando nel campo da tennis, se c'è un insegnamento, un tratto distintivo che vorresti trasmettere sempre in qualsiasi ragazzo e che tu alleni e che vorresti che loro si ricordassero nel proseguio della loro vita, perché c'era un mio grande maestro di tennis quando giocavo all'età di 14 anni che mi diceva sempre: guarda Tiziano, non per forza dovrai diventare un tennista, ma se diventerai sicuramente un bravo professionista, un ingegnere, un avvocato, un maestro, va bene uguale. E ciò io questa frase l'ho interpretata come vale a dire, il tennis va bene, però prima di formare un giocatore, forma una persona in quanto essere umano. E ecco, io penso che il maestro ha un ruolo di guida fondamentale a ciò. Per questo ti rimando alla domanda e volevo chiederti appunto se, c'è un tuo particolare insegnamento, un tuo particolare tratto distintivo che vorresti trasmettere ai ragazzi che continuassero, ad eseguirlo, diciamo, nel proseguio della loro vita. Allora, beh, un insegnamento solo mi mette un po' in difficoltà. Di sicuro quello che ti posso dire è che l'aspetto umano per me è tutto, nel senso che, come ti ho detto, il rapporto è fondamentale, è la prima cosa, e quindi il rispetto, l'educazione e l'impegno sono assolutamente fondamentali e sempre. Nel creare questo rapporto con i miei allievi ho fatto passare questi concetti, cioè io che rispetto loro e loro che rispettano me, non l'allievo che rispetta il maestro, deve essere un rispetto reciproco, l'educazione, cioè l'educazione deve esserci. Purtroppo no, i maleducati non funzionano, nel senso che l'educazione viaggia con rispetto, viaggia con impegno, se sei educato ti prendi degli impegni. Segui certe cose, poi ci sta la parolaccia, ci sta tutto, ci sta il momento dove sbrocchi, però deve esserci anche l'educazione. Quindi ti dico, sicuramente l'insegnamento è sempre rispettare, ascoltare, essere ascoltati, creare rapporto per conoscersi meglio. E poi, sinceramente, il fatto di sapere che siamo delle persone uniche e di non giudicare così di primo acchito una persona, ma di aver voglia di conoscerla, di scoprire quelle che sono le sue potenzialità, le sue risorse, di andare in qualche modo ad aiutarlo a fargliele vedere, se non è in grado di rendersene conto da solo, e di aiutarlo a svilupparle, beh, questo è sicuramente il finale, nel senso che spesso e volentieri ci ritroviamo non dei bambini già imparati e fenomeni, ma ci troviamo dei bambini che magari devono sviluppare capacità coordinative, magari non hanno propensione per il tennis, magari non hanno mai fatto sport, per cui non sono in grado di avere una buona attività motoria sul campo, piuttosto che avere una buona capacità oculomotoria con la palla, però magari hanno delle altre grandissime capacità che possono essere una grande attenzione per l'età che hanno, un grande entusiasmo. E quello che mi hanno insegnato negli anni questi bambini è che proprio le loro potenzialità possono servire ad esempio agli altri. Il bambino entusiasta e positivo è quello che ti trascina al gruppo, e quindi devi farlo sentire importante per quello. Il bambino invece che sa stare attento è quello che deve in qualche modo guidare e trascinare il gruppo nello stare lì. Per cui sicuramente quello che mi è piaciuto lasciare ai miei allievi è dire: ragazzi, ognuno di voi, nelle difficoltà che si incontrano tutti i giorni, ha sicuramente un suo dono, un suo potenziale. Tiratelo fuori, non dimenticatelo mai. Non sentitevi incapaci e non permettete a nessuno di dirvelo. Assolutamente. Quindi se devo lasciare un qualche cosa è: scopriti, riconosciti e sviluppa quello che c'è dentro di te, perché sicuramente tu, come tutti gli altri, hai un dono che può diventare grande e accompagnarti nella vita e farti sentire ok, perché poi alla fine il bambino ha bisogno di due cose: di sentirsi ok e di diventare autonomo. A quel punto lì è accessoriato per la vita, per cui il campo da tennis è veramente palestra di vita. E state sentendo appunto la disinvoltura con la quale padroneggia questi argomenti Monia, e denotano appunto l'esperienza pluriennale in questo campo, in questo settore, perché è bene sottolinearlo, Monia, perché molte persone, come dicevi tu prima giustamente, pensano che maestro ci si inventi o maestra ci si inventi, quando nella realtà dei fatti ci sono molte sfaccettature. Cioè è un lavoro come l'essere medico, l'essere avvocato, l'essere ingegnere, c'è tanto studio, ma soprattutto ci sono tante competenze messe concretamente in pratica dentro il campo, e anzi, tenendo conto che non stai parlando con un computer, con una macchina, ma hai a che fare con degli esseri umani, quindi la cosa diventa un po' più difficile, ma forse anche un po' più affascinante nello stesso tempo. Sì, assolutamente. Il mestiere di insegnante, che sia di sport o che sia insegnante di scuola, è un mestiere dove io dico che in qualche modo bisogna fare con competenze, ma con umanità, perché quando non si ha a che fare con un computer ma con un essere umano si possono fare anche degli danni. Esatto. Per cui deve esserci davvero quell'attenzione per dare il nostro meglio, cercare di accompagnare questi ragazzi per una crescita sana ed equilibrata, perché questo è davvero il nostro mestiere, nel senso che dobbiamo aiutarli a crescere in primis. Per cui se riusciamo a farlo in modo positivo, propositivo, ben venga. Quello che io ho imparato nell'ultimo anno attraverso i miei corsi e che mi ha colpito molto è una cosa a cui io stessa non ho mai posto così attenzione, e che invece mi ha dato molto da riflettere, è sul fatto che sia a scuola sia come genitore spesso ci viene da dire: ah guarda, lì potevi fare meglio, prima di dire invece il contrario. No, mi capita, mia figlia arriva a casa da scuola e lei stessa, no, mi dice: mamma, ho preso 9 perché ho sbagliato quella cosa lì. Perché l'input che mediamente si dà è quello di dire: hai fatto quello di errore, quando anche si corregge un compito. Io mi ricordo a scuola ti insegnavano di rosso e ti dicevano lì. Invece in realtà la cosa buona che potremmo fare, ma non per creare degli esaltati o delle persone piene di sé e dire: bravo, hai preso 9, ti sei impegnato. E lì c'è questo errore. Hai trovato difficoltà, non hai capito qualcosa o sei stato disattento, quindi di capire il motivo e non di additare. Però comunque di dare sempre prima un feedback positivo, perché quando dai un feedback positivo, l'approccio ad ascoltare quello che viene dopo è sicuramente un approccio molto più aperto. Cioè il bambino che riceve un bravo è molto più disponibile nei tuoi confronti, il bambino che viene subito massacrato chiude la porta e lì non ti ascolta più e puoi andare avanti anche mezz'ora a fare tutto il sermone, ma lui la porta l'ha chiusa e non sente una parola, e quindi il tuo sermone torna indietro e la volta dopo ti ritrovi di nuovo a ripetere le stesse cose. Invece se predisponi l'altro, perché dici: ah, io ho fiducia in te, ti credo, ti stimo, lui è molto più disponibile ad andare ad ascoltare le sue difficoltà e a ragionarci su. Poi ognuno ha i suoi tempi, però è chiaro che magari c'è quello che ti risponde subito, l'altro che ha bisogno di riflettere una settimana, l'altro che magari non ti ascolta perché ci sta anche quello. Però è chiaro che il feedback positivo è quello che predispone all'ascolto e fa aprire l'altro. E questo è quello che io ho imparato nell'ultimo anno, e di anni in campo prima ce ne sono stati 15. Quindi voglio dire, ahimè, qualche pezzo me lo sono perso. Però nella vita il bello è che tutti i giorni si può imparare qualcosa, quindi ben venga. Contenta di averlo imparato oggi. Meglio che non averlo imparato mai. Assolutamente sì. Quindi il tratto distintivo, per ritornare appunto alla domanda, e che io ho cercato di carpire, di cogliere nelle tue parole, è appunto quello, l'intento di dare valori veri a questi ragazzi da portare avanti poi nel proseguio della loro vita. Correggimi se sbaglio. Assolutamente. Ok. Assolutamente. Concordo perfettamente con questo, anche perché siamo in un'era, nell'era della distrazione e soprattutto anche penso del poco rispetto reciproco, quindi assolutamente riportare diciamo i ragazzi a farli ritornare a dei valori veri, quelli che c'erano una volta, quelli che c'erano un tempo, è assolutamente l'arma in più per farli diventare prima delle persone e poi, perché no, anche dei tennisti di valore, diciamo, di buon livello. E passando ad un altro discorso, ma ritornando appunto alle tue esperienze lavorative, so che hai collaborato anche con Riccardo Piatti, che è l'attuale allenatore di Miloš Raonic, e mi hai raccontato anche precedentemente e in altre occasioni come questo è stato un periodo importantissimo della tua vita lavorativa ma anche personale, e come è stato appunto un incontro e la collaborazione con lui ma anche con Danilo Pizzorno. Ecco, io volevo chiederti di raccontarci a tutti noi un po' questa tua esperienza lavorativa con Riccardo Piatti e Danilo Pizzorno, e com'è stata la collaborazione con loro. Vabbè, Riccardo è un grande coach invisibile, è una persona straordinaria prima di un allenatore, è un mix di entusiasmo, di energia, di creatività, di passione, di capacità di condividere e di trasformare. Io l'ho visto con delle mie allieve, cioè mai viste, palla in mano, si creava subito intesa e via, e questa è una capacità, nel senso di dire, quasi unica. Io mi mettevo lì e lo osservavo, lo guardavo e cercavo di capire come fare, perché era veramente, cioè, una magia, per me era magia. E comunque io stavo vivendo un periodo dove sul campo non ero particolarmente soddisfatta del mio lavoro, e sentivo la necessità di dover cambiare qualcosa, e perché secondo me si poteva far meglio, e quindi ero con la testa in attività per cercare delle soluzioni per poter cambiare un qualche cosa. E come sempre la vita che cosa fa? Ti mette sul cammino la persona di cui hai bisogno. Per cui il cieco della Stampa Sporting ha scelto di creare una collaborazione con Riccardo Piatti e Danilo Pizzorno, e non posso che dire che questo ha cambiato la mia vita. nel senso che in quel momento avevo bisogno di quello, per cui sono stata davvero felicissima e sono grata dell'esperienza che ho vissuto, perché penso che sia davvero un'esperienza unica. Io in realtà, che sono una persona a tratti anche un po' diffidente, nonostante avessi vicino a Riccardo Piatti, l'ho messo alla prova, per cui gli ho detto, senti, alla fine lui lavora con i professionisti, vediamo con i miei bambini piccoli di 4-5 anni che sta con Mina. Per cui gli ho detto, dai Riccardo, vieni qua, prova a tirare una palla ai miei allievi, fammi vedere come fai, no? In questo modo mi sono posta ad osservarlo, e quello che mi ha colpito è che anche con i bambini così piccoli, che hanno bisogno a volte di essere veramente presi, accompagnati con ancora maggiore attenzione, subito si è creata intesa, e soprattutto il metodo che lui utilizzava funzionava. E quindi io ho detto, ci siamo, era quello di cui avevo bisogno. Anche grazie a Danilo, alla videoanalisi, sono riuscita ad integrare e a imparare ancora meglio questo metodo, perché chiaramente attraverso il video dove ti siedi, te lo guardi tutti gli obiettivi che è importante raggiungere, i punti chiave, e seduto, riguardandotelo 50 volte all'ora che vuoi, è davvero una cosa che fa la differenza. E poi mi sono detta, d'altronde i bambini si insegnano le poesie da piccoli, cioè io vedo mio figlio alla scuola materna, arriva a casa per la festa della mamma, per la festa del papà, per la festa dei nonni, impara la poesia. Il metodo di Riccardo è un metodo semplice e soprattutto un metodo ordinato, per cui ho detto, come il bambino impara la poesia, può imparare anche un colpo attraverso un metodo ordinato. Tanto che io ai miei bimbi, che cosa dico sempre? Adesso impariamo la poesia del dritto. E vi do un ordine, dove la poesia viene imparata prima perché io gliela dico, e poi sono loro a ripetersela, quindi interiorizzano qualche cosa che poi si porteranno dietro tutta la vita. E quindi, insomma, io ho iniziato un po' con degli esperimenti, definivo i miei allievi delle cavie, perché quelle erano, però in realtà quello che poi ne è venuto fuori con gli anni è stato un metodo semplice e ordinato, però comprensibile ai bambini piccoli. Perché quello che io avevo nella testa era di utilizzare questo metodo con la lingua dei bambini, con le immagini dei bambini, con i giochi dei bambini. Per cui ho iniziato a parlare di Aquila, ho iniziato a tirar fuori Spider-Man, ho iniziato a parlare di Finale Gratta Gratta come la scimmietta della canzone Scimmietta Gratta Gratta, e in qualche modo i bambini mi seguivano di più, perché alla fine parlavo come parlavano loro. E così subito dai 4 anni i bambini erano in grado di imparare la tecnica senza accorgersene, attraverso dei giochi. Io di solito utilizzo come prima cosa la palla a cadere, anche per un'altra cosa, nel senso che penso che sia importante aiutare il bambino a sentire. Per cui io faccio cadere la palla, accompagno il bambino nella sensazione e in qualche modo lo faccio sentire capace e faccio sentire che c'è una persona vicino. A un certo punto che cosa si crea? Il bambino si sente capace, per cui dice, maestra, faccio da solo. Fantastico. In quel momento lì lui si sente ok. Nel momento in cui il bambino si sente ok, si diverte, il bambino nel tempo si appassiona, e quindi è un po' quello che l'insegnante deve portarlo a essere. E dopo questa, diciamo, fase iniziale di palla cadere, parte la fase di palla alla mano, dove io mi metto oltre la rete e loro iniziano, prima guidati da me, a ripetere poi questa poesia del dritto, che parte col motore acceso, che poi diventa Aquila, colpisco la palla, faccio il finale gratta gratta, e dopo una fase di tennis con le mani, dove io faccio fare esattamente le stesse cose ma senza la racchetta, essendo un gioco legato, io faccio fare magari la caccia al tesoro piuttosto che l'abbatti l'astronave con l'astronauta incastrato dentro, insomma tutta una serie di giochi, di stratagemmi di cui loro impazziscono. E quindi, insomma, in qualche modo imparano il dritto e il rovescio e non se ne sono accorti. E quindi insomma, credo che questo metodo di Riccardo, in qualche modo calato nella dimensione del linguaggio bambino, sia davvero funzionale e sia davvero un qualche cosa che fa la differenza. L'altro vantaggio di questo metodo, sì, è che comunque vengono educati anche i genitori, che sono sempre un po' il problema dei maestri, no? Ho sentito dire da qualcuno: vorrei che fosse orfano. Quante volte, no? In realtà io, è vero che lavorando con bambini piccoli e non con agonisti, sono sempre stata avvantaggiata perché non c'era questa pressione del risultato, anche se oggi il genitore tende a volere il bambino piccolo che sa fare mille sport, sa parlare l'inglese. Oggi c'è molto un'anticipazione dei tempi sul, come dire, sapere tante cose e crescere molto in fretta nel sapere le lingue, nel sapere gli sport, a discapito purtroppo a volte dell'autonomia. A me è capitato di avere in campo dei bambini di 9-10 anni che non sapevano allacciarsi le scarpe, che però è una cosa drammatica, perché a 9-10 anni non puoi non saperti allacciare le scarpe. Però magari sapevano già l'inglese e il francese, suonavano perfettamente la chitarra, giocavano a tennis, giocavano a calcio, e quando si presentavano da me avevano già fatto un'attività dopo la scuola. Quindi insomma, perché è utile questo metodo? Beh, perché comunque ci aiuta a essere più chiari. Io ho sempre cercato con i genitori di essere molto chiaro su che cosa stavo facendo, e questo mi ha consentito di avere la loro fiducia, che è una cosa importantissima, perché se il bambino si rende conto che l'insegnante si fida di te, lui si fida ancora di più e ti ascolta ancora di più, e si crea quella sinergia genitore, insegnante, allievo, che davvero è molto funzionale. I genitori sono fondamentali nella crescita dei figli e vanno coinvolti, trasformandoli in alleati nel nostro lavoro. Cioè, la trasparenza, la comunicazione chiara ed efficace in ciò che noi facciamo con i loro figli è fondamentale per tutto questo. Io addirittura avevo ideato una cosa a fine anno, ho chiesto, ho detto, parlando con il mio capo: senti, ma sarà mai possibile che gli insegnanti di scuola a fine anno facciano i colloqui e noi no? Ho detto: anche noi siamo degli insegnanti. Quindi ho insistito un po' su questa cosa fino a quando ovviamente ho avuto un ok. E per cui ho fissato degli incontri con tutti i genitori, anche di quelli dei bambini della propedeutica di 4 anni. E grazie alla videoanalisi, che cosa avevo io? Un video iniziale di quando i bambini erano arrivati e un video finale di fine anno. Per cui dedicavo quella mezz'oretta ai genitori, in cui non solo parlavo dei loro figli dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista umano, per cui come in questi video si vedeva anche il modo loro di presentarsi, per cui magari all'inizio li vedevi più timidi, nel secondo video invece li vedevi più dritti, più come dire, sicuri di sé, e si muovevano in modo diverso. E poi ovviamente con il video, anche nei bimbi piccoli, si vedeva una differenza incredibile tra quando erano arrivati con questa racchetta farfugliavano, al secondo video invece finale, dove invece sapevano giocare un diritto, un rovescio. Per cui in qualche modo dicevi: guardate, i vostri soldi li avete investiti in questo posto con questo insegnante per avere questo risultato. E oggi, insomma, voglio dire, buttare i soldi dalla finestra non è proprio il massimo, per cui capisci anche come hai investito e se hai fatto un buon investimento sia di posto sia di persone. Certo. E poi la cosa bella del video, oltre alla videoanalisi per questi bimbi piccoli, che ho sempre trovato straordinaria, è che comunque il video è un ricordo. Cioè, avere i video dei tuoi figli di quando hanno 4 anni e avere i video tutti gli anni, quando ne hanno 10, riprendi tutti questi video, ed è una cosa per un genitore impagabile. È verissimo. Io stessa, quando mi sono sposata, mi sono fatta fare il video, e devo dire che ancora oggi con i miei figli guardo il video del mio matrimonio e le foto, ti dico la verità, lasciano un po' il tempo che trovano. E poi l'altro vantaggio del video è che comunque è quando un insegnante ti dice un qualche cosa, è vero che puoi migliorare, ma è anche vero che a volte gli allievi non si rendono conto di quello che stanno facendo, e se ne rendono conto quando si vedono. Uh-huh. E quindi quando facevamo questi incontri e c'era anche il bambino con noi e rivedevamo le cose, dicevano: ah, ecco perché mi dici quello, maestra, adesso finalmente ho capito, perché si rivedevano. E quindi devo dire che davvero questi anni di collaborazione con Danilo e Riccardo mi hanno trasformata e sono immensamente grata a loro per tutto quello che mi hanno donato, e immensamente grata al circolo della Samba Sport di Torino che mi ha permesso di fare un'esperienza tanto arricchente. Certo. Io auguro a tutti di incontrare nel loro percorso Danilo e Riccardo, perché basta un giorno e ti dicono quelle due o tre cose che il giorno dopo ti fanno fare la differenza nel campo. Perfetto, e certo, e immagino, io non conosco né Riccardo né Danilo di persona, mi auguro di conoscerli molto presto, ma diciamo che i risultati, no, i fatti parlano da soli, quindi quando ci sono... Assolutamente, condivido, che poi alla fine sono quelli che parlano. Quindi. Esatto, quindi l'ho seguito in qualche simposio, ma di persona ancora non li conosco, spero di avere il piacere di conoscerli presto, ma sicuramente grandissimi risultati con grandissimi giocatori di livello internazionale. Abbiamo anche, come a dimostrazione, Miloš Raonic, che sta facendo molto molto bene, quindi gli auguriamo tutto il meglio. E volevo semplicemente, stiamo giungendo quasi alla conclusione di questa intervista con Monia, e volevo chiedergli qualcosa di più riguardo i suoi progetti che avevo enunciato nella fase, nell'introduzione, e per quanto riguarda il progetto 1-2-3 Tennis, Family Tennis e Tennis per Gioco, e dove i genitori di questi ragazzi possono trovarti, un indirizzo, hai delle pagine Facebook o quant'altro, e volevo sapere appunto le tue intenzioni tramite questi progetti futuri e cosa andrai a creare di qui in avanti. Allora, a settembre è cambiato tutto, nel senso che ho rivoluzionato la mia vita. Poco più di un anno fa mi sono trovata di fronte a un bivio. Sono trovata di fronte a un bivio non facile, perché un giorno mio figlio è venuto a casa e mi ha detto: mamma, non ci vediamo più. Arrivi tardi la sera, nei weekend lavori sempre. E in quel momento lì ti garantisco che una spada ha trafitto il mio cuore, perché ciò che ho fatto con tanto amore fino a quel giorno lì è stata veramente la cosa cui poi alla fine ho scelto in qualche modo di rinunciare, non in tutto, ma ho pianto una settimana, sono sincera, non mi vergogno a dirlo. Sono stata male, probabilmente il mio fisico si è ribellato, quindi mi sono ritrovata a letto con la febbre a 39,5, e questo mi ha consentito di riflettere molto e di prendere la mia decisione intorno al 20 di febbraio del 2015. E lì sono andata al circolo e ho iniziato a dire che avevo delle difficoltà nella mia gestione di mamma e di maestra, e non è stato facile, perché comunque era ciò che avevo scelto, amato, ma i miei figli che ho scelto ed amato di avere valevano di più. Uh-huh. E quindi in qualche modo ho cercato di pensare a cosa avrei potuto fare per continuare a farlo in modo diverso, e quindi ho deciso di iscrivermi a un corso di marketing, a un corso di comunicazione, per vedere se trovavo la giusta strada per continuare a fare quello che mi piaceva nei tempi che servivano a me. Uh-huh. Per cui ho lasciato il circolo dopo 16 anni e ho lasciato a malincuore i miei allievi, li ho invitati a cena, chiedendo loro di continuare a essere il gruppo che ho cercato di creare, e in qualche modo ho supportato negli anni, facendo anche cose extra tennis, nel senso che io mi divertivo molto con loro, anche fra l'altro andavamo a giocare alla laser game, piuttosto che andavamo a mangiarci il sushi insieme, organizzavamo tornei di basket prima del torneo di tennis, di singolo, di doppio, facevamo merenda insieme, per cui i miei allievi erano qualcosa di più per me che allievi, e quindi lasciare quello per me è stato davvero difficile. Mi sono ritrovata quest'anno un paio di occasioni ad aiutare dei colleghi nei tornei, e dopo che ho messo l'ultima medaglia mi sono nascosta con gli occhi pieni di lacrime, perché mi manca terribilmente questa mia parte di vita. Però nella vita si devono fare delle scelte a volte, e quando si fanno delle scelte si perdono delle cose, e io ho dovuto rinunciare a quello. Avevo cresciuto per anni figli degli altri, era giunta l'ora di dedicarsi ai propri e di crescere i miei figli. E quindi, dopo che mi sono iscritta a questi corsi, ho attivato la mia mente, ho studiato tantissimo, ho dedicato alde e notti a guardare video, a leggere libri, a studiare, e alla fine ho creato tre progetti. L'ultimo nato si chiama Tennis per Gioco, e nasce anche un po' per gioco, perché un giorno la mia migliore amica mi ha detto: facciamo qualcosa insieme? Ho detto: vabbè, facciamo qualcosa insieme. Allora, che cosa vai a fare quando succedono queste cose? A riaprire il cassetto dei sogni. Io l'anno scorso avevo deciso di lanciare un corso per le scuole, perché era funzionale ai miei orari di mamma, però ero da sola, e quindi ho messo il mio progetto fatto, finito, dentro il cassetto dei sogni. E allora, quando è arrivata questa mia amica, l'ho tirato fuori e le ho detto: guarda un po' qua che cosa abbiamo. E quindi questo progetto nasce su un valore che lo sport insegna, che è l'amicizia. La nostra è nata sul campo, è cresciuta giorno dopo giorno, abbiamo vissuto dei bellissimi momenti insieme, ci siamo state vicino nei nostri momenti duri, quelli che hanno tutti nella vita. E l'obiettivo di questo progetto qual è? Trasformare il tennis da sport di elite a sport per tutti i bambini. Il tennis è uno sport caro come lo sci, come il golf, e ci sono dei bambini che non hanno la possibilità di provare a giocare a tennis. E quindi che cosa abbiamo scelto di fare? Di creare un progetto per le scuole di Torino e dintorni che consentisse ai bambini, a un prezzo giusto e anche abbastanza accessibile, di provare il tennis senza doversi spostare da scuola, che è l'altro problema. Ci sono genitori che lavorano, che non possono accompagnare i figli, non hanno nessuno che li accompagni. Quindi noi abbiamo pensato a un progetto che potesse veramente far giocare i bambini a tennis, perché né dovevano spostarsi ed è a un prezzo accessibile a ogni famiglia. E la nostra frase è: ognuno con i suoi tempi e con i suoi modi, perché crediamo che sia fondamentale rispettare l'unicità del bambino che si ha davanti, perché ci sono i figli che hanno bisogno di essere accompagnati, di essere in qualche modo assecondati nei loro modi e tempi di relazione, e quelli invece più euforici, che hanno bisogno di essere un pochino più contenuti e di avere qualche regola che li guidi. E quindi in qualche modo di dare a tutti la possibilità di riconoscersi e di scoprire il loro potenziale e di svilupparlo. E quindi questo è l'ultimo nato, ed è quello che presenteremo alle scuole primarie, quindi per tutte le classi prima, seconda, terza, quarta, quinta, a Torino e dintorni. È la nostra sfida, perché tutti i maestri sanno che i progetti di tennis delle scuole sono progetti difficili, sono progetti non sempre sposati, e noi lo facciamo fondamentalmente proprio per far giocare tutti, nel senso che non siamo libere in questo momento, non abbiamo diciamo una finalità di portarli da nessuna parte, se non di fargli provare uno sport, e poi se qualcuno ci chiederà, ovviamente li invieremo al circolo. L'idea è quella di avviarla al circolo più comodo per la famiglia, perché da mamma posso dire che la comodità è tutto. Certo. Sì. Un altro progetto, che invece è il primo nato, è il progetto 1-2-3 Tennis, dove sulla mia pagina Facebook scrivo ogni giorno un post sull'importanza dell'atteggiamento e della mentalità dell'insegnante, che è un po' quello che penso che in questa intervista sia uscito in tutto ciò che ho detto. Certo. Tratterò poi successivamente tematiche come la comunicazione e l'importanza del rapporto con i genitori. E in questo progetto che cosa sto facendo? Sto girando dei video con i bambini per consentire a tutti quei maestri che lavorano con i bambini molto piccoli, quindi già dai 4 anni, di avere la possibilità di vedere come un metodo semplice e ordinato come quello di Riccardo Piatti consente ai bambini di divertirsi e di diventare dei piccoli giocatori in miniatura, come quelli che loro vedono alla TV e che dicono guarda come giocano, ed appassionarsi al tennis. In realtà dico una cosa che non dovrei dire, perché ho lì da un po' di tempo e dovrei, come dire, scrivere al computer e produrre. Io ho scritto un ebook che si intitola Grandi coach per piccoli campioni. E prometto che prima o poi uscirà online sulla mia pagina, per cui chi avrà il piacere di volerlo leggere se lo potrà scaricare. Non nell'immediato, perché ho davvero tante cose da fare per seguire i miei progetti e per lanciarli, però prometto che prima o poi questo ebook uscirà. Era pronto, devo solo scriverlo, e non a penna come amo fare, ma sul computer, e lo farò uscire. L'ultimo progetto lo tengo per ultimo, non perché sia ultimo, perché in realtà è per me il primo perché è quello che mi sta più a cuore, e il primo perché è un progetto di una famiglia, perché coinvolge i miei figli e in qualche modo coinvolge anche mio marito, che nonostante abbia un'azienda e sia molto impegnato, si rende disponibile a fare certe cose che mi sono utili, come girare video durante gli eventi o a darmi delle dritte riguardo agli aspetti più, come dire, quelli in cui io sono meno forte, quelli in cui bisogna mettere le immagini insieme, bisogna creare locandine dove lui invece è più ferrato. E questo progetto Family Tennis nasce dall'amore per i miei figli, dall'importanza che ha poter condividere dei momenti di gioco con i propri genitori e poi dalla passione per il tennis. Insieme ai miei figli ho girato dei video per aiutare i genitori a giocare a tennis con i propri figli. Spesso un genitore dice, ma figuriamoci, io mai preso una racchetta in mano, come posso essere in grado di giocare con mio figlio a tennis, di insegnargli qualcosa, di palleggiare con lui? È molto più semplice di quello che si crede in realtà. Veramente devo dire che bisogna guardare, provare per credere, perché tutti ce la possono fare. E in qualche modo l'ho voluto dimostrare questo, e decidendo di organizzare un evento per la festa del papà, ho deciso di organizzare Papà Gioca con Me, dove al Circolo del Nord Tennis, dove attualmente sto collaborando e girando i miei video per il progetto 1-2-3 Tennis, ho creato questo evento con 8 papà e 8 bambini che avevano tra i 5 anni e mezzo e gli 8 anni. E vi garantisco che ho vissuto delle emozioni magnifiche e ho respirato gioia ed entusiasmo per 3 ore. E tanto che ho deciso appunto poi di montare un video che è stato girato da mio marito, che mi ha scattato foto e fatto video, e dove ho raccolto e mi sono goduta nuovamente tutta l'atmosfera che si era creata, dove i genitori hanno fatto tutto loro, perché loro tiravano le palle, io guidavo, dicevo che cosa fare, i genitori tiravano le palle e giocavano con i propri figli. Genitori di bambini che non avevano mai giocato tennis, forse tranne uno, e che poi mi sono riusciti a colpire la palla, si sono divertiti. E l'evento è stato creato come gioco sport, per cui in realtà hanno giocato anche molto e fatto altro. Io li ho guidati nel fare il dritto, hanno fatto una gara di corsa, hanno fatto tutta una serie di giochi di coordinazione, poi abbiamo fatto una merenda tutti insieme e tra l'altro abbiamo festeggiato anche una festa di compleanno, perché c'era un papà che faceva gli anni, quindi quale occasione migliore per far festa. E gli ho raccontato la storia della festa del papà, alla fine gli ho fatto fare dei giochi a squadra e principi azzurri contro supereroi, e dove dovevano fare la caccia al tesoro, costruirsi il castello, che è un gioco che piace molto ai bambini, dove devono mettere la torretta, poi gli faccio mettere la palla sopra, e infine mia figlia, che ha 8 anni appena compiuti, ha gestito questi 8 bambini facendogli fare un lavoretto da regalare al papà a fine evento, per cui per me è stata magia. È stata magia ancora di più quando i miei figli alla fine mi hanno detto: questo è stato il giorno più bello della nostra vita. Perché mi ero riscattata da mamma, cioè tutto quel tempo che nell'ultimo anno gli avevo tolto, quest'anno sono riuscita a regalarglielo, e quel tempo che un genitore regala a suo figlio, tanto poco che sia, ma se un tempo di qualità, è un tempo che poi quando crescono ti torna indietro, perché quella porta che loro chiudono se non si sentono ascoltati, quando invece sentono un genitore che li include nella loro vita, li accompagna e li ascolta, poi sarà sempre aperta anche negli anni più difficili dell'adolescenza. Bene, quindi il video del mio evento, se qualcuno vuole vederlo, lo può trovare sulla mia pagina Facebook, Family Tennis, dove anche lì posto ogni giorno una pillola, un suggerimento per i genitori, essendo anche laureata in psicologia. E quindi se qualcuno è curioso e vuole andare a leggere o in qualche modo confrontarsi, scrivere una problematica, condividere, è sicuramente il benvenuto. E adesso mi sto preparando, mamma gioca con me, perché ovviamente adesso avendo fatto l'evento per il papà, certo, e devo fare l'evento delle mamme, e qualche mamma che c'era all'evento mi aveva chiesto, ma c'è mamma gioca con me? E di sicuro, e poi ci sarà ovviamente anche nonno gioca con me, perché io l'anno scorso al Circolo della Stampa avevo lanciato un corso genitori, figli, nonni, nipoti, che aveva avuto un successo incredibile, dove c'erano questi nonni carichissimi e felicissimi di giocare con i nipoti, e poi avevo due genitori che erano commercialisti e mi arrivavano dallo studio, una coi tacchetti, l'altro con le scarpe inglesine, ma non si sono persi una lezione. Io ho stimato immensamente queste persone e ho gioito con loro nel vedere l'entusiasmo e la gioia che condividevano con i loro nipoti e i loro figli. È stato veramente tutto molto molto molto bello. E quindi insomma oggi sono qua con delle sfide, dei miei progetti, però ho la cosa più grande, il tempo di condividere tutte queste cose con i miei figli e di trasmettergli che cosa è davvero importante nella vita, perché per me è questo. E bene, e tanti progetti, molto tutti molto interessanti, e tutti che riguardano poi il rapporto genitori, maestri, figli, e sicuramente darai un grandissimo contributo, ma già lo stai dando, e a questa realtà, perché si legge appunto tutta la tua passione e anche la tua voglia di metterti in discussione, metterti in gioco riguardo questi argomenti. E quindi sto seguendo e continuerò a seguire con tantissimo interesse tutti i tuoi progetti, e anche e soprattutto sulla pagina Facebook. E Monia, io ti ringrazio, siamo giunti al termine di questa intervista, e quindi ti ringrazio davvero per la tua disponibilità e per il tempo che hai deciso di dedicarci, e parlo a nome mio come a nome di tutti gli appassionati giocatori di tennis e genitori appunto che ci stanno seguendo in questo podcast, e ti faccio i miei più grandi in bocca al lupo, davvero sinceri, per i tuoi progetti futuri, e ti auguro tutto il bene e il meglio per la realizzazione degli stessi, te li faccio di cuore. Io ti ringrazio di avermi coinvolto in questo tuo progetto, che trovo davvero straordinario, e ti ringrazio di avermi intervistato, di avermi scelto, e anch'io un in bocca al lupo da farti, perché so che domenica hai il tuo primo evento a Senigallia, e ti auguro di realizzarlo come lo hai sognato, ed è stato davvero un piacere, un onore per me poter parlare oggi e condividere con te tutto questo e con chi avrà il piacere di ascoltarci. E come dici tu, play tennis with passion. Infatti stavo appunto per chiudere. L'ho rubata! Me l'hai anticipata! Infatti stavo appunto chiudendo con i nostri ascoltatori. E se vi è piaciuta l'intervista con la maestra illuminata Monia Trevisiol, e l'hai trovata di tuo interesse, e continua a seguire le prossime puntate di Sprigione il tennista che è in te, e ti invito a mettere un mi piace alla pagina Facebook Tennis Winner Game e a visitare il mio sito internet www.tenniswinnergame.com. troverai un sistema di allenamento innovativo e rivoluzionario che ti permetterà di migliorare dopo sole 5 ore di allenamento la velocità e la precisione dei tuoi colpi. E io ti saluto augurandoti tutto il meglio, una strepitosa giornata e play tennis with passion.